A colui che è fermo nei suoi sentimenti tu conservi la pace. La pace, perché in te confida. Isaia 26:3. Nel 1976, ovunque andavo a predicare, parlavo di un argomento che mi aveva toccato nel profondo, al punto che il mio vivere da cristiano era cambiato sensibilmente. Questo argomento non aveva nulla di particolare, ma i credenti ringraziavano il Signore per le benedizioni ricevute e mi incoraggiavano a parlarne più spesso. L'argomento coinvolgeva tutti, giovani e vecchi, sposati e celibi, uomini e donne, ogni credente di qualsiasi età spirituale. Questo argomento ci coinvolge finché staremo su questa terra. E non solo. Secondo la Scrittura ne sono coinvolti gli angeli in cielo e addirittura Dio, Luca 15, 5, Ezechiele 18 e 23. Che argomento poteva essere? L'argomento era i nostri sentimenti. Spesso i libri dedicano non poche pagine ai nostri sentimenti, alle nostre sensazioni, e la ragione è molto semplice. Noi viviamo una vita principalmente emotiva. Noi proviamo gioia, felicità, allegrezza, emozioni, eccitazioni, depressioni, tormenti, sofferenze, confusioni, ansie, zelo, freddezza, affetti, aspirazioni, concupiscenze, compassioni, bontà, preferenze, interessi, speranze, orgoglio, paure, odio e tante altre simili cose. I sentimenti occupano un ruolo maggiore rispetto a quello dell'intelletto e della volontà. L'intelletto è l'organo della riflessione, del pensiero e del ragionamento. La volontà è l'organo delle scelte e delle decisioni. Ad eccezione quindi dei nostri pensieri e delle nostre determinazioni, tutte le altre attività della nostra anima nascono dalle emozioni. Ma, come considereremo, per un credente non cic, è pericolo più grande che camminare sulla base dei sensi, dei sentimenti, delle sensazioni o emotività. Tristezze, malinconie. Gli studiosi affermano che la parola sensazione non si trova nella Bibbia. Ciò che noi chiamiamo sentire, cioè mi sento che mi capita qualcosa, la Bibbia lo chiama visione, cioè una rivelazione di Dio. E quindi tutt'altra cosa. Però nella Bibbia abbiamo la parola sentimenti. Da una lettura attenta scopriamo che non ha il significato che diamo noi, cioè la facoltà e l'atto di sentire, di ricevere impressioni esterne, che per sinonimo possiamo definire affetto, moto dell'animo, del cuore. I traduttori, infatti, rendendosi conto di questa difficoltà, non hanno sempre tradotto la parola ebraica o greca corrispondente con sentimenti, come abbiamo nella versione Luzzi. Notiamo le loro versioni. Diodati, questo è un pensiero fermo, tu le manterrai la pace. Nuova Diodati, alla mente che riposa in te tu conservi una pace perfetta. Nardoni, il cui carattere è fermo, che custodisce la pace. Concordate il suo proposito è saldo, tu le conservi la pace. Mariani, gente di cuore saldo, tu custodisci la pace. I traduttori quindi hanno preferito dare il significato alla parola sentimenti, decisione e proposito fermezzamente. Il versetto di Isaia 26, 3 va quindi inteso così. Dio conserva la pace a colui che è fermo nei suoi propositi, nelle sue decisioni prese con coscienza. Nel Nuovo Testamento questa parola viene usata spesso da Paolo e almeno per 6 volte esorta i credenti ad avere un medesimo sentimento. Romani 12, 6, 15, 5, 2 Corinzi 13 e 11. Leggiamo un brano nella lettera di Paolo indirizzata ai Filippesi per capire il suo significato. Se dunque vinque, è qualche incoraggiamento in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno, con umiltà, stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. Filippesi 2:1-8. Paolo invita i filippesi ad avere lo stesso sentimento di Cristo. Dal contesto è chiaro che non si riferisce a delle sensazioni, ma al proposito di Gesù, alla sua decisione e alla sua fermezza di umiliarsi e morire in croce. Tenendo presente che in greco la traduzione letterale è pensare la stessa cosa, quando Paolo invita i cristiani ad avere un medesimo sentimento, li invitava ad avere uno stesso obiettivo, essere motivati dalla stessa decisione di Gesù, amare il prossimo col servizio. Avere dunque lo stesso sentimento non significa provare le stesse sensazioni o emotività, altrimenti tutti dovremmo andare alle riunioni della Chiesa con lo stesso grado di gioia o di dolore. Possiamo affermare con certezza che la Scrittura non ci invita a basare la nostra vita cristiana sui sensi, sulle nostre sensazioni, sul nostro stato d'animo. Anzi, afferma che camminare sulla via dei sensi significa imboccare una strada che non piace a Dio, perché la vita emotiva può essere considerata il più terribile nemico della vita di un credente spirituale. Ecco alcune affermazioni che troviamo nelle lettere. Senza fede è impossibile piacere a Dio. Ebrei 11:6. Camminiamo per fede e non per visione, cioè per via dei sensi. 2 Corinzi 5:7. Il giusto vivrà per la fede. Romani 1:16. La fede dunque non deve essere vista solo in opposizione alle opere fatte per ottenere la salvezza, ma anche alle sensazioni, ai sentimenti per quello che riguarda la condotta cristiana. Proprio perché questo fatto non è compreso dalla maggioranza dei credenti, molti hanno una vita cristiana tribolata, sofferente, problematica. Altri cadono senza mai più rialzarsi. Ecco un ipotetico esempio dal libro Il labirinto delle mie sconfitte. Edoardo ha peccato e di conseguenza ha dei sensi di colpa. Però è un cristiano e confessa il suo peccato e chiede perdono. Poi rivolge la sua attenzione ai suoi sentimenti. Questi continuano a rivelare lo stesso senso di colpa. Ed Edoardo confessa un'altra volta il peccato, chiedendo il perdono a Dio. I suoi sentimenti però non cambiano. Nei giorni seguenti continua la lotta ma senza successo e tenta di produrre dei sentimenti di pentimento per provare di sentire finalmente il perdono. Ma non cambia nulla. Perché? Perché Edoardo ha dato ai suoi sentimenti un valore maggiore che alla parola di Dio, perché pensa che se ancora prova un senso di colpa ciò significa che non è stato ancora completamente perdonato. Edoardo è quindi convinto che i suoi sentimenti meritino maggiore fiducia della parola di Dio, la quale invece parla chiaramente del perdono totale. Egli si lascia ingannare dai suoi sentimenti bugiardi. E, un'esperienza che forse tutti abbiamo fatto, che alcuni stanno facendo, ma la fede può toglierci ogni peso. Il principio è sempre quello, dare più valore a quello che Dio afferma anziché quello che proviamo con i nostri sentimenti. Noi diciamo di avere la vita eterna? Perché? Perché ci sentiamo salvati? No, perché lo afferma la parola di Dio. E questo è un atto di fede. Noi affermiamo di avere lo Spirito Santo. Perché? Perché lo vediamo o lo sentiamo? No, perché sta scritto nella parola di Dio che chiunque crede riceve lo Spirito Santo. E vediamo per fede i suoi risultati. Una fede che si nutre di emotività è una fede debole, che ha continuamente bisogno di nuovi stimoli, mentre una fede che si ciba della parola di Dio è una fede stabile, perché le parole di Cristo non passeranno. Ma i sentimenti ci sono stati donati da Dio. Quando Dio diede ad Adamo per moglie, Eva esclamò: «Questa, finalmente, è ossa delle mie ossa e carne della mia carne». Quel finalmente esprime l'idea di un essere al quale mancava qualcosa, di qualcuno che era insoddisfatto e che finalmente ora era soddisfatto, aveva ottenuto l'unica cosa che gli mancava. Dio non condanna i nostri sentimenti. ma ciò che non approva è un cammino cristiano basato sulle emozioni, il che vuol dire valutare cose giuste o sbagliate, prendere decisioni sulla base dei propri sensi. Ecco cosa scrive Tozer nel suo libro, La Divina Conquista. Il sentimento non è un figlio degenere della incredulità. La capacità di provare dei sentimenti è uno dei contrassegni della nostra origine divina. Non dobbiamo vergognarci delle nostre lacrime, né del riso. Il cristiano stoico che ha soffocato i suoi sentimenti è uomo solo per due terzi. Una terza parte assai importante è stata ripudiata. I sentimenti ebbero sempre una parte importante nella vita di Cristo. Davanti ad una vedova che portava alla sepoltura, il suo unico figlio si commosse, Luca 7:12. Sta scritto che Gesù, tra le persone che conosceva, amava Marta e sua sorella e Lazzaro, Giovanni 11:5. Quando i discepoli sgridavano coloro che portavano i bambini a Gesù, egli si indignò, Marco 10:14. Davanti alla tomba di Lazzaro Gesù pianse, Giovanni 11:35, come pure sulla città di Gerusalemme, Luca 19:41. Mosso dallo Spirito, Gesù esultò, Luca 10:21. All'ultima cena leggiamo che Gesù fu turbato nello Spirito, Giovanni 13:21. Nel Getsemani, Gesù aveva l'anima oppressa da tristezza mortale, Marco 14:34. In Ebrei leggiamo, per la gioia che gli era posta innanzi sofferse la croce. Quando era sulla terra, Gesù non ha represso nessuna emotività, ma è stato veramente l'uomo, Giovanni 19:5. Allora come dobbiamo comportarci con i nostri sentimenti? Dobbiamo esprimerli oppure no? Se dobbiamo esprimerli, quando dobbiamo farlo? I sentimenti sono leciti e giusti quando seguono la fede, cioè quando sono il risultato della fede, e non viceversa. Ecco cosa afferma la parola di Dio. Giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio. Romani 5:1. La pace per Paolo era il risultato di sapere che i suoi peccati erano stati perdonati. Il lavoro di Satana è farci sentire colpevoli di ciò che Dio ha dimenticato. Credendo in Cristo, anche se non lo vedete, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa. 1 Pietro 1:8. La gioia dei primi cristiani era il risultato di aver creduto in Gesù Cristo così come è rivelato nella parola di Dio. La fede ha bisogno di sostanza, e questa sostanza la si trova nella parola di Dio e non nelle montagne russe delle nostre emozioni. Ecco una bellissima testimonianza di un vero credente. Molti dicono, chi ci farà vedere il bene? O Eterno, fa risplendere la luce del tuo volto su di noi. Tu mi hai messo più gioia nel cuore di quanto ne provano essi, quando il loro grano ed il loro mosto abbondano. In pace mi coricherò e in pace dormirò, poiché tu solo, o Eterno, mi fai dimorare al sicuro. Salmo 4:6-8. Chi non conosce Gesù Cristo cerca continuamente nella vita ricchezze, benessere, comodità, interessi terreni, ma il cristiano è colui che ha una felicità superiore a ogni ricchezza terrena. E alla sera può riposare con un animo sereno, sapendo di essere nelle mani di Dio. I sentimenti devono quindi essere guidati e controllati, mai condurci. Come disse Platone, come il re governa tramite i suoi ministri, così nell'uomo la ragione deve dominare i semplici appetiti per mezzo dell'elemento spirituale. Il cristiano che basa la sua vita sulle sensazioni e sui sentimenti è un cristiano carnale, debole. Colui che è padrone dei propri sentimenti è un cristiano maturo e darà ad essi il giusto posto alla sua vita emotiva. Essere uomo completamente significa sottomettere le passioni alla volontà e la volontà offerta a Dio, C.S. Lewis. Il regno di Dio chiama uomini e donne che sappiano provare delle grandi passioni e che sappiano fare delle grandi rinunce. Elerate la passione per l'Evangelo che ancora oggi motiva uomini e donne di Dio a intraprendere grandi opere bivegno dei cieli. Eber la passione per le anime che spinge uomini e donne sulla via missionaria. In riferimento alla nostra vita emotiva non dobbiamo mai dimenticare le parole solenni di Geremia. Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa e insanabilmente maligno. È vero che il credente ha un cuore nuovo, ma ciò non toglie che in lui abiti ancora la natura corrotta. Se il cuore è la sede dei nostri sentimenti, Geremia sta dicendo che noi siamo ingannati continuamente nella vita. Noi ci sforziamo di proteggerci da ogni illusione o corruzione, ma non ci avvediamo che il nemico più grande non sono gli altri, ma il nostro cuore. E questa è la ragione perché delle ragazze di 16 anni scappano da casa dopo essersi innamorate di uomini sposati di 40 anni. Esse non si pongono il problema se quello che provano emotivamente è giusto o sbagliato, e se lo pongono sono inconsciamente vittime dei loro impulsi. Per loro, ciò che provano ha la stessa autorità di un Dio. Ma i sentimenti di affetto non possono definire da sé le proprie norme di comportamento a prescindere da ogni prescrizione. Essi non possiedono in se stessi la legge ed i modi della propria attività. L'innamoramento è lecito, ma quando non si capisce più nulla, quando tutto ci appare diverso, quando si è invasi da piacevoli sensazioni e dal desiderio di stare sempre con la persona amata, allora le emozioni si stanno subendo, creano un danno incalcolabile. Ho conosciuto una sposa, madre di due figli, che ha lasciato il proprio marito per andare con un altro pur sapendo che questo non l'amava. Com è possibile? La passione e i sentimenti avevano accecato la sua razionalità. Oltre che essere stata ingannata dai suoi sentimenti, questa sposa ne era vittima, era diventata schiava, mostrando ancora una volta che un pensiero sbagliato può essere facilmente corretto, ma un affetto sbagliato è spesso ingovernabile. Eppure per molte persone queste esperienze attraversano la loro vita come navi che attraversano il mare, non lasciano nessuna traccia, nessun insegnamento. È dunque vero che prostituzione, vino e mosto tolgono il senno, Osea 4:11, e che solo Gesù Cristo può rendere liberi dalla schiavitù dei sentimenti non leciti, Giovanni 8:36. Purtroppo non sono solo i sentimenti illeciti che portano alla distruzione di vite e di rapporti di coppia, ma anche quelli leciti non sottomessi all'autorità della parola di Dio. Riporto uno stralcio di una lettera di una lettrice inviato ad un periodico. Mi ha lasciata dopo una vacanza trascorsa insieme ai Carabi. Non ho mai capito se l'ha fatto perché aveva già un'altra, o piuttosto perché l'amore che diceva di provare era una favola che raccontava a se stesso, e naturalmente a me. Avremmo dovuto andare a vivere insieme e avere due figli. Ne avevamo parlato a lungo, ci eravamo immaginati la casa, i bambini, la nostra vita futura sino alla vecchiaia. Non so spiegarmi cos'è successo, né lui è stato mai in grado di dirmi qualcos'altro, a parte restiamo amici. Una frase che, comma, è ovvio, non ha avuto alcun seguito perché non ho più voluto saperne di lui. Mi ha fatto troppo male. Ero giovane, romantica e piena di sogni. Sono stata con lui dai miei 20 anni ai 27. E quando tutto è finito volevo solo morire. Se tu che leggi hai un matrimonio che sta andando alla deriva, se un tuo legame sentimentale si è rotto, non vi è altra alternativa che rivedere la tua vita sentimentale alla luce della parola di Dio e accettare la dura realtà che noi non sappiamo amare e che non siamo amati con il vero amore. Erich Fromm ha dato una buona definizione dell'amore. L'amore non è soltanto una relazione con una particolare persona, è un'attitudine, un orientamento di carattere che determina i rapporti di una persona col mondo, non verso un oggetto d'amore. Se una persona ama solo un'altra persona, ed è indifferente nei confronti dei suoi simili, il suo non è amore, ma un attaccamento simbiotico, o un egoismo portato all'eccesso. Eppure la maggior parte della gente crede che l'amore sia costituito dall'oggetto, non dalla facoltà di amare. Infatti, essi credono perfino che sia prova della loro intensità del loro amore, il fatto di non amare nessuno tranne la persona amata. Se io amassi veramente una persona, io amerei tutti, amerei la vita. Se posso dire ad un altro ti amo, devo essere in grado di dire amo tutti e te, amo la vita attraverso te, amo in te anche me stesso. Parole vere, che ancora una volta mettono in evidenza che l'amore erotico è forse la più ingannevole forma d'amore che esista. Anche nella vita religiosa e cristiana non ci è tentazione più grande e dannosa che quella di appoggiarsi sui sentimenti. Alcuni per questa ragione sono sedotti da sette assurde. I cristiani a volte amano ciò che non deve essere amato e non sono inclinati verso ciò che dovrebbero amare. Perché? Perché abbiamo tutti dei sentimenti corrotti. Di così causa i nostri sentimenti a volte non riusciamo a pregare, a leggere la parola di Dio, a testimoniare o ad andare alle riunioni di chiesa. Causa le nostre forti emozioni è altrettanto difficile fare capire a un figlio di Dio innamorato di una ragazza non cristiana che i suoi sentimenti sono sbagliati. Soprattutto per un giovane è difficile accettare che la spontaneità dei suoi sentimenti deve essere espressa nell'ambito della volontà di Dio. Che similacenti babbalusi, eppure il fattore dominante per stabilire la sincerità o la falsità della nostra consacrazione è considerare se abbiamo o no abbandonato tutti i nostri affetti nelle mani di Dio. Quando il sentimento ci parla con la voce di un Dio, ogni altro richiamo si spegne. Nel suo libro L'impegno per l'Altissimo, scrive Oswald Chambers, molti dolori che abbiamo come cristiani hanno la loro causa non tanto nel peccato, quanto nell'ignoranza delle leggi che regolano la nostra natura. Per esempio, prima di dare libero corso a un'emozione, dobbiamo indagare per vedere dove essa possa condurci, traendone poi le conseguenze logiche. Se vedessimo che il risultato fosse qualcosa che Dio condanna, non diamo le via libera. Purtroppo anche il nostro modo di parlare non ci aiuta a risolvere i nostri conflitti con i sentimenti. Quando affermiamo che l'amore è uno dei più bei sentimenti che l'uomo possa provare, dobbiamo fare attenzione a quello che intendiamo veramente. Dobbiamo capirci, altrimenti non risolviamo i nostri conflitti. Noi abbiamo urgentemente bisogno di comprendere che cosa intendiamo per amore, perché non sapremmo mai se osserviamo i due più grandi comandamenti, amare Dio e il prossimo come noi stessi. Dopo la conversione abbiamo bisogno di una rieducazione dell'amore per destituire le cattive concezioni acquisite e consolidate nella nostra ignoranza di Dio. Scrive C.S. Lewis nel suo libro Mere Christianity riguardo al comandamento ama il prossimo tuo come te stesso. A pensarci bene, io non provo verso di me un preciso sentimento di affetto e non sempre godo nemmeno della mia propria compagnia. Pare quindi che l'amore verso il prossimo non voglia dire provare affetto verso di esso né trovarlo simpatico. Poi aggiunge, io penso bene di me, mi giudico simpatico? A volte sì, e quelli sono i momenti peggiori, ma non è questa la ragione per la quale io ami me stesso. E, anzi, esattamente il contrario, è l'amore di me stesso che mi induce a giudicarmi simpatico, ma il giudicarmi simpatico non è la ragione per la quale io ami me stesso. E quindi amare i nemici non vuol dire trovarli simpatici. Infatti, aggiungo io, quando Gesù ordina di amare i nemici in Matteo 5, 43-48, ci ingiunge di pregare per loro e fargli del bene. Noi cristiani siamo bloccati verso i nostri nemici proprio dai sentimenti che proviamo, ma se mettiamo in pratica quello che Gesù ha detto, troviamo con sorpresa che anche i nostri sentimenti mutano. La fede produce sentimenti, quelli giusti. Lewis continua col dire che i suoi maestri cristiani gli insegnavano che avrebbe dovuto odiare le azioni del malvagio, ma amare il malvagio, cioè odiare il peccato, ma non il peccatore. Poi aggiunge, per gran tempo ho ritenuto questa distinzione sciocca e pedante. Com'è possibile odiare ciò che un uomo fa e non odiare l'uomo? Ma dopo vari anni mi è venuto in mente che esisteva un uomo verso il quale mi comportavo esattamente a questo modo, cioè me stesso. Per quanto mi siano antipatiche la mia viltà, la mia superbia, la mia avarizia, ho continuato per tutta la vita ad amare me stesso. Per farlo non ho mai trovato la minima difficoltà. L'amore non è una indiscriminata profusione di sentimenti, ma un comportamento nei confronti del prossimo, tale da arrecargli beneficio. Per questo non occorre la semplice conoscenza delle scritture. Occorre qualcosa di più. il discernimento, che è l'applicazione appropriata dei principi scritturali di caso in caso. L'amore è ben più che accettazione del prossimo, ma vederlo diventare tutto ciò che Dio vuole che sia. Amare il prossimo significa dunque occuparsi concretamente di lui. Al di là dei nostri sentimenti, come afferma anche la parola di Dio, figlioletti miei, non amiamo a parole né con la lingua, ma a fatti e in verità, e da questo noi sappiamo di essere nella verità, e tranquillizzeremo i nostri cuori davanti a Lui, poiché se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. 1 Giovanni 3, 18-20. Abbiamo capito questo messaggio? Giovanni dice di continuare a compiere degli atti positivi verso il prossimo, anche se il nostro cuore ci condanna, cioè anche se proviamo un sentimento contrario. È evidente che non sempre il tuo nemico è disposto a ricevere atti positivi. Ecco perché Dio ci ordina, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. In definitiva, bisogna aiutare il nemico solo se si trova in difficoltà. Se vedi l'asino di un tuo fratello o il suo bue caduto sulla strada, tu non farai finta di non averli visti, ma dovrai aiutare il tuo prossimo a rialzarlo. Deuteronomio 22:4. La scrittura prevede anche la possibilità di non poter andare d'accordo con tutti. Se è possibile, per quanto sta in voi, vivete in pace con tutti gli uomini. In questo caso bisogna pregare e continuare a comportarsi bene, perché quando l'Eterno gradisce le vie di un uomo, fa essere in pace con lui anche i suoi nemici. Proverbi 16:7. Ma il cuore rimane sempre una trappola mortale per le nostre relazioni, perché scambiamo per amore ciò che non è. Giustamente qualcuno ha scritto: se sei commosso fino alle lacrime davanti alla sofferenza, se senti il tuo cuore battere forte in presenza di una data persona, questo non è amore ma sensibilità. Se ti sei lasciato prendere dalla sua forza seducente o dal suo fascino, se sedotto ti abbandoni, non è amore ma cedimento. Se sconvolto vai in estasi per la sua bellezza, se questa la contempli per gioirne, se trovi il suo spirito interessante, se cerchi il piacere della sua conversazione, non è amore ma ammirazione. Se con tutte le tue forze desideri ottenere uno sguardo, una carezza, se sei pronto a tutto per tenerla fra le braccia, non è amore ma sensualità. Quindi l'essere commossi, avere dell'ammirazione, nutrire passione e piacere delle compagnie di qualcuno, non è sempre il risultato dell'amore. I falsi sentimenti sono sempre in agguato e la giusta difesa contro di essi non è evitarli o eliminarli, ma inculcare i giusti sentimenti. Come faccio allora a sapere se ho veramente i giusti sentimenti, se amo il mio prossimo come me stesso e non sono vittima della mia emotività? A questo risponderemo dopo aver compreso se amo veramente Dio, perché se non so come amare Dio non posso sapere se amo il mio prossimo. AMARADIO. Chi non ha un rapporto con Dio non ha altra scelta che dipendere dai propri sentimenti e fidarsi della propria autorealizzazione. Abbiamo affermato che il primo comandamento di Dio è quello di amarlo. Se questo è il comandamento più grande, significa che la trasgressione di esso comporta il più grande peccato. Anche per questo comandamento i nostri sentimenti continuano a ingannarci, perché possiamo testimoniare che, a partire da noi, prima o poi ci siamo resi conto che pensavamo di amare Dio fino a quando abbiamo scoperto che ci eravamo illusi. Chi ci aveva illusi? Il nostro fratello? No. La Chiesa? No. Chi allora? I nostri sensi. Come si può essere sicuri di amare Dio? È possibile evitare questo terribile inganno? Sì. Ancora una volta dobbiamo affidarci alla parola di Dio. Se uno mi ama, osserverà la mia parola. Giovanni 14:23. E questo è l'amore, che camminiamo secondo i suoi comandamenti. 2 Giovanni 6. È vero che ci sono cose difficili da capire nella parola di Dio, ma una verità in questo argomento è chiara. Chi ama Dio osserva i suoi comandamenti. La dimostrazione che amo Dio sta nell'osservare ciò che Lui ha ordinato. Gesù non ha detto che chi ama Dio prova un grande trasporto, è animato da un forte impulso verso di Lui, è continuamente rapito dalla presenza di Dio, vive sulle vette dell'emotività, ma è colui che obbedisce nonostante tutto. Questo modo di agire è stato di tutti i grandi uomini di Dio che hanno portato avanti il loro compito, nonostante i contrasti della vita e dei loro sentimenti. Ecco cosa scrive al riguardo Paolo. Se predico l'Evangelo non ho nulla da gloriarmi, poiché è una necessità che mi è imposta, e guai a me se non predico l'Evangelo. Se perciò lo faccio volontariamente, ne ho ricompensa. Ma se lo faccio controvoglia, rimane sempre un incarico che mi è affidato. 1 Corinzi 9, 16-17. La grandezza di Paolo non è stata quella di vivere in armonia con le sue emotività, o avere comunque stampato sulle labbra un sorriso smagliante, ma nell'assolvere il suo mandato anche se non ne aveva voglia. Spesso per noi la correttezza di ciò che facciamo viene giudicata dalla qualità emotiva generata dal nostro comportamento. In poche parole, se ti fa sentire bene, fallo. Malati come siamo di romanticismo, noi vorremmo che i nostri sentimenti fossero sempre in armonia con la volontà di Dio. Ma questa utopia è un ideale che paghiamo a caro prezzo quando esso viene ricercato come la norma o il massimo della vita cristiana. Giustamente scrive Chambers, non vivere mai in dipendenza dai momenti speciali perché vengono solo all'improvviso. Dio li concederà quando vedrà che non corriamo il pericolo d'esserne fuorviati. Non dobbiamo mai considerare i momenti di particolare contatto con Dio come una norma. La norma è l'adempimento del nostro compito. La grandezza di un uomo di Dio non è arrivare alle grandi vette, ma essere costante e fedele ogni giorno. È più facile vivere un giorno di ebbrezza spirituale che vivere costantemente alla presenza di Dio. È come nel matrimonio. È più facile vivere l'ebbrezza del viaggio di nozze o di giorni particolari che essere premurosi e teneri ogni giorno. Dovremmo diffidare dei nostri sentimenti, di quello che proviamo. Quale bambino potrebbe terminare gli studi solo se studiasse quando ne ha voglia? Quale operaio andrebbe a lavorare se potesse andare solo se si sente ben disposto? Quale matrimonio può stare in piedi se gli sposi fanno solo ciò che piace ai loro sensi? Quale chiesa crescerebbe se i credenti facessero solo ciò che procura soddisfazione? Quale credente potrebbe crescere se facesse la volontà di Dio solo quando se la sente? Fare ciò che è giusto e non ciò che mi sento è quindi il segreto per diventare uomini e donne al servizio di Dio. Scriveva una professoressa che dirigeva un istituto di neuropsichiatria. Vediamo quasi ogni giorno studenti universitari di 25 anni in cui non è ancora compiuto il processo maturativo di costruirsi dentro qualcosa. Cioè il pensiero razionale è in anticipo e la parte emotiva in ritardo. Il pericolo dei giovani è proprio nella loro capacità di inibirsi, cioè rinviare i loro istinti, negare i loro impulsi, accantonare i loro sentimenti. Essere avanti di età non significa essere adulti. Lo si è solo quando i sentimenti sono al nostro servizio. Adulti non si nasce, si diventa. Maschi e femmina si nasce. Diventare donne. E uomini è un processo di ogni giorno ai quali non tutti arrivano. Non dobbiamo dimenticare che nessun aspetto della nostra esistenza naturale subisce ferite così dolorose come la nostra emotività. Se non sappiamo reagire positivamente ai nostri sentimenti feriti, non diventeremo mai degli uomini di Dio. Vi è pure un altro modo per sapere se amiamo veramente Dio. Lo esprime nel suo modo insolito Lewis nel libro Il problema della sofferenza. Egli considera quest'ultima un mezzo per conoscere se veramente amiamo Dio. Noi siamo eredi di un intero sistema di desideri che, se non contraddicono necessariamente la volontà di Dio, dopo secoli di autonomia usurpata, la ignoriamo però fermamente. Se quello che ci piace fare è in effetti quello che Dio vuole che facciamo, non vuole dire che questa sia la ragione per cui la facciamo. Resta una pura felice coincidenza. Pertanto non possiamo sapere che agiamo per amor di Dio, o almeno primariamente per amor di Dio, a meno che il contenuto della nostra azione non sia contrario alle nostre inclinazioni, o in altre parole, non sia doloroso. In pratica il discorso si sposta solo leggermente. Se amare Dio significa obbedire al di là dei sensi, è chiaro che se una cosa è contraria alle nostre inclinazioni, e quindi dolorosa, è difficile eseguirla. Si può agire contro i nostri sentimenti solo se si è spinti dall'amore, perché è difficile credere che si faccia qualcosa solo per il desiderio di soffrire. Quindi fare la volontà di Dio quando questa ci costa è senz'altro un mezzo abbastanza valido per verificare il nostro amore per Lui. In termini pratici può significare il rifiuto di affetto illecito, di un cibo che non ci mantiene la salute, di un interesse non pulito. Amare il prossimo. Ognuno di noi interiormente è il risultato di una complessa serie di elementi. Ognuno ha un suo temperamento, una sua personalità, una sua sensibilità. Ognuno di noi ha modi diversi per esprimere gioia, affetto, dolore. Nelle relazioni interpersonali dobbiamo tenere conto di queste variabili. Pretendere di essere delle creature senza emozioni o con sentimenti standardizzati, cioè tutti uguali, fatti in serie, è alterare il senso della parola di Dio. Contemporaneamente, però, non possiamo neppure relativizzare o giustificare ogni comportamento. Così, una volta capito com'è, posso sapere se amo Dio, riesco anche a comprendere se amo il mio prossimo. Ecco cosa leggiamo al riguardo nella parola di Dio. Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. 1 Giovanni 4 e 19. Se uno dice, io amo Dio ma odia suo fratello, è bugiardo, perché chi non ama suo fratello, che ha visto, non può amare Dio che non ha visto. 1 Giovanni 4 e 20. Chiunque crede che Gesù è il Cristo, è nato da Dio, e chiunque ama colui che ha generato, ama anche chi è stato da Lui generato. Da questo sappiamo che amiamo i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti. Perché questo è l'amore di Dio, che osserviamo i Suoi comandamenti, e i Suoi comandamenti non sono gravosi. 1 Giovanni 5, 1 a 3. Giovanni afferma che l'amore per Dio è il risultato o il riflesso dell'amore che Dio ha avuto per noi. Poi continua con l'affermare che non è possibile amare Dio e non amare il fratello, dando del bugiardo a chi sostiene il contrario. Al versetto 21 riassume il comandamento di Dio che è quello di amare il fratello, e questo si ama perché è stato da Dio amato. Poi al versetto 2 del capitolo 5 afferma che noi possiamo comprendere di amare il fratello quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti. Forse a noi sfugge il ragionamento di Giovanni. Egli non afferma che sappiamo di amare i fratelli se proviamo dei forti sentimenti, e questo forse lo accettiamo, ma neppure se gli facciamo del bene. Infatti si può distribuire tutti i beni e darli ai poveri e non avere amore. 1 Corinzi 13, 3. Tutti conosciamo i due comandamenti che Gesù ha espresso come compendio della legge: amare Dio e il prossimo. Ma ho l'impressione che pochi abbiano compreso quello che Gesù voleva insegnare. Noi pensiamo che dobbiamo amare Dio e amare il prossimo nel seguente modo. E questa è la ragione del perché molte persone hanno cominciato con l'amare il prossimo e poi non sono più riusciti a continuare. Inizialmente provavano verso di essi dei forti impulsi positivi. In seguito hanno visto dei difetti che non hanno potuto sopportare. I loro sentimenti si sono trasformati, sono diventati negativi al punto di non sentire più dell'affetto e coerenti con ciò che provavano. Non si sono più interessati di loro. Ma questo non era ciò che voleva dire Gesù quando ordinò di amare Dio e il prossimo. L'amore espresso in questo modo è mettere l'accento sulla mia forza, sui miei sentimenti, e vivere ancora sotto alla legge. Nessuno di noi può amare il prossimo, altrimenti saremmo come Dio. Se leggessimo attentamente 1 Giovanni 5, 2, avremmo più chiaro come sia possibile amare il prossimo e quale sia il solo modo in cui si possa amare. Da questo sappiamo che amiamo i figli di Dio. Quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti, il prossimo quindi si può amare solo nel seguente modo. Da questo schema si comprende che io non sono in grado e non posso amare il prossimo. Direttamente. Finché non la smettiamo di vedere l'amore come un impervio dovere diretto verso il prossimo. Anziché verso Dio, continueremo ad accumulare inutili sforzi, col risultato di una vera e propria nevrosi di obbligo. Posso amare il prossimo solo se amo Dio, cioè amo il prossimo solo se il mio amore passa attraverso l'amore per Dio, se il mio amore è la continuazione dell'amore per Dio. Amo il prossimo in Dio, amo il prossimo perché amo Dio. Il vero amore dell'uomo è triangolare, non bilaterale. La forza che spinse Paolo al servizio non è stato l'amore per gli uomini, ma l'amore per Gesù Cristo. Con questo quadro, tanti atti di altruismo, di beneficenza, di consacrazione, di ammirazione, di affetto sono difficili da catalogare nell'ambito del vero amore per il prossimo. Si possono fare tante cose buone per il prossimo spinti da un sentimento di compassione, di tenerezza, anche di un bisogno psicologico di sentirsi utili, e questo non va certamente scoraggiato. Però non possiamo chiamarlo amore nel senso cristiano. Gli psicologi hanno a volte sottolineato che si può spendere per egoismo l'intera propria vita in generosità. Spesso ci si piega all'obbedienza più per necessità che per amore. Paolo stesso riconosce che si può dare il proprio corpo a essere arso, si possono distribuire tutti i beni per nutrire i poveri ed essere senza amore. Tutto ciò è drasticamente vero. Finney colse sul segno quando disse: fino a quando i cristiani non avranno motivi più elevati nell'offrire la preghiera, fino a quando non si elevi al di sopra dei sospiri di tenerezza materna e puliri caterna, fino a quando non saranno spinti da sentimenti di simpatia, le loro preghiere e le loro fatiche avranno ben poco effetto. L'amore è un'arte da imparare il cui insegnante è lo Spirito Santo. Così anche nella vita di chiesa amiamo i fratelli solo se veramente amiamo Dio, altrimenti è sentimentalismo. Quando Gesù chiese a Pietro se lo amava, e questo gli rispose affermativamente, egli gli disse: «Pasci le mie pecore, abbiamo capito». Prima Gesù chiese a Pietro se lo amava, poi gli disse di pascere il gregge. Si può pascere il gregge per tanti motivi, per realizzarsi, per essere in una posizione di comando, per interesse. Ma là, il vero vescovo è colui che pasce il gregge perché è amato da Dio, perché lo ama in Dio tramite Dio o per amore di Dio. E questo principio vale per ogni altra relazione umana. Matrimoniale, fraterna, sociale, di parentela. Leggiamo cosa scrive a proposito Lewis. L'amore cristiano verso il prossimo è cosa bene diversa dall'affetto e dalla simpatia. Ci piace certa gente e la troviamo simpatica e altri non ci piacciono, né ci riescono simpatici, e di notevole importanza comprendere che tale naturale simpatia non è una colpa né una virtù, più di quanto lo siano le preferenze in rapporto agli alimenti. Si tratta di una semplice realtà, ma naturalmente sarà peccaminoso o virtuoso il nostro modo di servircene. Questo discorso è molto importante per una buona relazione fraterna. Dobbiamo comprendere che il male non è nei nostri sentimenti, ma nel modo in cui ce ne serviamo. Ecco perché Lewis continuerà col dire: non preoccupatevi di scoprire se amate o no il prossimo, agite come se lo amaste. Quando ci si comporta come se si amasse qualcuno, a poco si giunge ad amarlo davvero. Ne deriva che la carità cristiana, sebbene possa apparire fredda a chi abbia la testa piena di sentimentalismi, e quantunque sia ben diversa dall'affetto, pure conduce a sentimenti affettuosi. Quanti credenti mi hanno confessato di sentirsi ipocriti perché i loro sentimenti contrastavano con quello che facevano. Si sentivano ipocriti verso Dio perché pregavano senza voglia, si sentivano accusati dalla coscienza perché pregavano per un fratello o gli facevano un atto di cortesia quando non provavano nessun trasporto. E pensare che, come abbiamo considerato, era proprio in quei momenti che essi dimostravano sicuramente l'amore. Avere dei sentimenti contrastanti non è peccato perché fa parte della nostra natura corrotta. Il peccato consiste nell'obbedire ai sentimenti negativi. Una sorella un giorno mi ha confessato quando si sentiva in colpa perché provava dei sentimenti omosessuali. L'ho rasserenata dicendole che finché tutto era a livello di sentimenti ciò non costituiva trasgressione alla legge di Dio. Se nella nostra mente si presentano idee che sono in conflitto con la parola di Dio, dobbiamo ritenere ciò normale, ma non è normale né naturale realizzarle. Chi non accetta di avere una natura corrotta dal peccato dove l'intelligenza è offuscata, il sentimento depravato, la coscienza inquinata, la volontà pervertita, è destinato a vivere drasticamente con dei forti sensi di colpa per poi scaricarli sugli altri. Dobbiamo distinguere i sensi di colpa dalla convinzione di peccato. I sensi di colpa ci abbattono, conducono alla depressione. La convinzione di peccato libera dai pesi, da pace, gioia e ci riconcilia a Dio. Amare il prossimo, dobbiamo dirlo ancora una volta, significa accettarlo così com'è. Non vuol dire trovarlo perfetto, ma perfettibile, cioè che si può perfezionare e migliorare. Ricordiamoci, siamo tutti dei brutti anatroccoli, ma in trasformazione per diventare all'immagine di Cristo. Se non gradiamo una persona, spesso non è per quello che è, ma per ciò che noi siamo. Amare il prossimo, per quanto sembra assurdo, significa anche soffrire più che provare dei sentimenti di attrazione. Scrive Trobisch, l'amore è un sentimento da imparare e tensione e completamento è desiderio profondo e ostilità e gioia e pena. Non c'ha, è l'una senza l'altra. La felicità è soltanto una parte dell'amore, meno è questo che si deve imparare. Anche la sofferenza fa parte dell'amore. E questo è il mistero dell'amore, la sua bellezza e il suo fardello. L'amore è un sentimento da imparare. Amare significa soffrire nel servizio. Significa agire come colui che è amore, il quale, quando ha amato il mondo, non ha provato un gran sentimento, ma ha dato il suo figlio unigenito. Quando Gesù venne sulla terra, amò tutti gli uomini, ma per essi non è detto che provò un grande trasporto, ma ha dato la sua vita per l'uomo. L'amore non calcola. Scrive Chambers. Se l'amore umano non trasporta colui che ama al di là dei suoi limiti, non è vero. Amore. Se l'amore è sempre discreto, sempre prudente, sempre ragionevole nel calcolare i pro e i contro, se non va mai oltre se stesso, non è affatto amore. Potrà essere affetto, potrà essere calore di sentimenti, ma non ha la particolare natura dell'amore vero. L'unica condizione per amare è amare senza condizioni. Io credo che a volte ciò che frena ad amare senza calcolo è proprio la paura della sofferenza. Noi vorremmo amare senza rischiare di dover poi soffrire e così, per paura, a volte non amiamo come si conviene. Ma ecco un'altra riflessione veramente straordinaria di Lewis che merita di essere citata. Amare significa in ogni caso essere vulnerabili. Qualunque sia la cosa che vi è cara, il vostro cuore prima o poi avrà a soffrire per causa sua, e magari anche a spezzarsi. Se volete avere la certezza che esso rimanga intatto, non donatelo a nessuno, nemmeno a un animale. Proteggetelo, avvolgendolo con cura in passatempi e piccoli lussi. Evitate ogni tipo di coinvolgimento. Chiudetelo col lucchetto nello scrigno o nella bara del vostro egoismo. Ma in quello scrigno al sicuro, nel buio, immobile, sottovuoto, meno esso cambierà. L'alternativa al rischio di una tragedia è la dannazione. L'unico posto, oltre il cielo, dove potrete stare perfettamente al sicuro da tutti i pericoli e i turbamenti dell'amore, è l'inferno. Sono convinto che il più sregolato e smodato degli affetti contrasta meno la volontà di Dio di una mancanza d'amore volontariamente ricercata per autoproteggerci. È vero, la mancanza della capacità di amare è simile alla condizione di vita dell'inferno. Ciò che il credente ha maggior difficoltà di abbandonare nelle mani di Dio è la sua vita sentimentale. L'accettazione e la consacrazione al Signore della nostra emotività è un criterio certo di spiritualità. Amare Dio sopra ogni cosa significa anche mettere sull'altare i nostri sentimenti e lasciare che il fuoco di Dio li bruci o li purifichi, scrive Tozer. Il sentimento è il suonare dell'emozione sopra la volontà, una specie di accompagnamento musicale negli affari della vita, e anche se è davvero piacevole avere la banda che suona mentre marciamo verso Sion, non è però per niente indispensabile. Noi possiamo lavorare e camminare senza musica, e se abbiamo vera fede possiamo camminare con Dio senza emozioni. Dopo che il Signore ha fatto sentire il suo amore a una persona, desidera che creda intellettualmente al suo amore. E chi è senza fede che non è gradito a Dio, non colui che non prova sentimenti. E la fede che rende grande un uomo, non la sua emotività. Desiderare e cercare di sentire la presenza di Dio è senz'altro lodevole, ma questa brama nasconde un'insidia non indifferente, un cammino sabbioso e incostante basato sull'emotività. Colui che coltiva tale obiettivo alimenta senza rendersene conto un sentimento infantile e difficilmente può vederne il pericolo, perché è moralmente lodevole. Spesso i peggiori peccati contengono proprio elementi cristiani, come quello dell'orgoglio di sentirsi delle brave persone dopo aver compiuto la volontà di Dio. La Scrittura invita il credente a far leva sul sapere e non sul sentire. Ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del Figlio di Dio, affinché sappiate che avete la vita eterna, e affinché continuate a credere nel nome del Figlio di Dio, 1 Giovanni 5 e 13. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. 1 Giovanni 3, 2. Noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi non ama il proprio fratello rimane nella morte. 1 Giovanni 3, 14. E da questo noi sappiamo di essere nella verità e tranquillizzeremo i nostri cuori davanti a Lui. 1 Giovanni 3 e 19. Chi osserva i Suoi comandamenti dimora in Dio ed Egli in Lui, e da questo sappiamo che Egli dimora in noi, dallo Spirito che Egli ci ha dato. 1 Giovanni 3 e 24. Da questo sappiamo di amare i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti. 1 Giovanni 5, 2. Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace nel maligno. 1 Giovanni 5, 19. L'Apostolo Giovanni traccia un cammino cristiano tutt'altro che basato sui sentimenti. Nella sua prima lettera, egli usa il verbo sapere o conoscere almeno 25 volte per incoraggiare coloro che, causa e sentimenti, sono in preda dell'incertezza e della confusione ed essere condotti dalle certezze intellettuali che produce la parola di Dio. Questo comporta da parte del credente un impegno non indifferente a crescete invece nella grazia e nella conoscenza del Signore e Salvatore nostro Gesù Cristo. 2 Pietro 3, 18. Il credente è certo della salvezza della presenza di Dio in lui di amare i fratelli, perché sa e non perché sente. Possiamo così parafrasare la promessa di Isaia 26, 3. Solo a colui che è determinato, che si propone con un carattere saldo tanto da non scostarsi da questa verità, Dio gli conserva la pace, gliela custodisce perché confida in lui. Non vi è vita che glorifichi Dio come quella trascorsa nella consapevolezza della sua pace. Conclusione. Nella vita di fede dobbiamo basarci sulla verità biblica e non sull'altalena delle nostre emozioni. L'ardore del sentimento, associato ad una volontà esercitata dalla ragione uniti in equilibrio dalla saggezza della parola di Dio, diventa un potenziale enorme. Ringraziamo Dio per la nostra emotività, come per ogni altra cosa. Non diamo cieca fiducia ai nostri sentimenti. Rendiamo soggetti alla verità le nostre emozioni. Esprimiamo liberamente ogni sentimento nell'ambito della volontà di Dio. Custodire il cuore, controllare i sentimenti, guidarli, sorvegliarli, renderli soggetti alla ragione, far valere il principio della verità e non del sentimento è il segreto per una vita cristiana abbondante, felice, serena, fruttuosa, vittoriosa, che glorifica Dio. Che i nostri sentimenti non uccidano noi né muoiano essi, donne. E per questo prego che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in ogni discernimento, Efesini 1:9, affinché otteniate tutte le ricchezze della piena certezza d'intelligenza per la conoscenza del mistero di Dio. Settembre 2000. Ellero.